130. Salsa olandese. Burro, grammi 70. Rossi d'uovo numero 2. Agro di limone, una cucchiaiata. Acqua, un mezzo guscio d'uovo. Sale e pepe. Sciogliete il burro a parte senza scaldarlo troppo. Mettete i rossi con l'acqua in una bacinella e sopra un fuoco leggero o sull'orlo del fornello cominciate a batterli con la frusta. E un po' per volta versate il burro. Quando il composto si sarà condensato, aggiungete il limone e per ultimo il sale e il pepe. Va preparata al momento di servirla. È una salsa delicata per pesce lesso o per altra cosa consimile e sarà sufficiente per un quantitativo di grammi 500 circa.